portate borsane, mantello e calzari, non portate pane né pastone né denari. Cercate il lusso delle vesti in questo mondo, amatevi l'un l'altro, fra voi ditevi fratelli. Per servire voi veniste polvere il denaro, accogliete nella gioia l'uomo che a voi venga, sia l'amico che il nemico, il ladro ed il brigante. Nulla vi trattenga, vi divida, vi separi. We'll be right back.